cercando un altro me, non vedo più un fine, cercando dentro di me, un lento fiume che corre, sarà perché ogni cosa è come un'onda meravigliosa, cercando dentro di me, imparerò da me un altro errore, un altro errore e sarò me, imparerò da me sulla mia pelle e le mie ossa insieme a te. La la la la vu vu vu vu za za za za sarò me. E c'è chi c'è nel mio volto vedo te, e c'è chi c'è se ti volvi vedi me, giorno e notte per cercare nuove strade a ti segnare, rompi capi da serpente, così mi bagno ogni giorno la tua fonte, così ti bagni ogni giorno la mia fonte. Ca-ca-ca, imparerò da me un altro errore, un altro errore e sarò me, imparerò da me sulla mia pelle e le mie ossa insieme a te. Già in paradai, sì che parerò da me, oh, oh, da me, sei da me, oh. Sì che imparerò, sono già in paradai, sì che parerò da me, oh, oh. Imparerò. Oh, oh.